Allora, a me l'ingrato compito di porre alcune domande, tanto per fare un po' di conduzione, e partirei da un inquadramento storico, poi passerei al dettaglio. Quindi, Francesca, se tu ci potessi maggiormente definire che cosa fu la contestazione ecclesiale. Allora, diciamo, io vi parlo un po', di come questa storia che abbiamo appena visto si inserisce in un quadro un pochino più ampio di quello che fu il mondo cattolico della fine degli anni 60. Perché, come abbiamo visto dal film, l'isolotto fu un'esperienza eccezionale. Mi sembra che questo emerga bene dal film. Ma fu anche un'esperienza, non vorrei dire comune, ma più comune di quello che magari oggi potrebbe sembrare a chi non c'era in quegli anni. Perché che cosa era successo? Che cosa stava succedendo negli anni 60 nel mondo e nel mondo cattolico? Si era concluso il Concilio Vaticano II nel 1965, il film ne parla, ma fu veramente un momento di svolta per il mondo cattolico, per la Chiesa cattolica, che passò dall'essere sostanzialmente contraria a tutto quello che rappresentava la modernità, cioè una chiesa gerarchica, una chiesa proprio contraria a tutto quello che era il mondo moderno che si stava sviluppando nel Novecento, quindi l'urbanizzazione, l'emancipazione della donna, la partecipazione democratica nella vita del paese. La Chiesa cattolica era stato questo, fino al Concilio Vaticano II, che indetto dal Papa, cioè il Concilio è un momento in cui tutti i vescovi del mondo si ritrovano e prendono delle decisioni per il futuro della Chiesa. In quei 3 anni, perché durò dal 62 al 65, la Chiesa prese delle decisioni veramente radicali, direi, perché comunque iniziò a definirsi come popolo di Dio, quindi tutti i cattolici, tutti i fedeli partecipavano insieme al clero alla gestione proprio della vita della Chiesa, e questo è proprio quello che si vede in questa storia, no? Cioè le persone che fino ad allora assistevano ai riti semplicemente come uditori iniziano ad avere un ruolo, iniziano ad avere la loro voce. Quindi questo, insieme ad altre cose, cioè per esempio cambia proprio la messa. La messa fino ad allora era in latino, dopo il Concilio Vaticano II si inizia a celebrarla nelle varie lingue dei vari paesi. E diciamo, tutto questo crea un clima di entusiasmo diffuso in tutto il mondo, che appunto porta le persone a trovare intorno alle chiese, come accade all'isolotto, dei luoghi dove iniziare a vivere una dimensione comunitaria. Quindi nascono in tutto il mondo delle comunità di base, come questa dell'isolotto, e per esempio, per farvi capire, cioè proprio il livello di diffusione di questo processo, a Pistoia, città sicuramente piccola, ci sono 3 o 4 esperienze che nascono in quegli anni che sono analoghe a quella dell'isolotto. Questa di Firenze è stata famosa in tutto il mondo e appunto venivano qui persone da tutta Europa e da tutto il mondo per conoscere l'isolotto. Però anche a Pistoia, per esempio, il quartiere del Belvedere aveva un prete che comunque espresse pubblicamente solidarietà all'isolotto e creò una comunità del quartiere con cui viveva appunto delle dimensioni simili a questa. Oppure il centro di documentazione stesso, che non a caso stasera ha organizzato con noi questa serata, il centro di documentazione di Pistoia, nasce nel 68 con una impronta cattolica importante. Oppure adesso noi vediamo TVL, anche TVL nasce a Pistoia negli anni del Concilio Vaticano II, non come televisione ma come rivista, ma è una realtà che nasce proprio come comunità legata alla parrocchia delle Casermette, per esempio. Quindi ecco, solo 3 esempi su Pistoia, ma ce ne sarebbero appunto che se ne possono fare su tutta Italia e su tutto il mondo. Quindi un momento di grande entusiasmo e di partecipazione da parte dei giovani e dei fedeli. Che stagione che appunto poi a seconda dei gruppi trova delle evoluzioni diverse. Cioè, nel film forse non so se chiarissimo, però nel 74 comunque Don Mazzi viene ridotto allo stato laicale, quindi c'è una rottura con la Chiesa cattolica ufficiale. Altri gruppi non hanno seguito questa strada, ma per esempio altro movimento che nasce in quegli anni è quello per esempio di Comunione e Liberazione, che oggi invece rappresenta la parte anche più tradizionalista del cattolicesimo italiano, però nasce in quegli anni di fermento del dopo concilio, quindi le strade poi sono numerose e molto diverse, o di rottura con la gerarchia, oppure anche di riassorbimento, cioè di ritorno all'ordine, passatemi il termine, come anche per esempio la vicenda di TVL a Pistoia, certamente non ha poi seguito una strada di contestazione rispetto alla Chiesa, ma appunto è ancora oggi all'interno dell'ortodossia cattolica. Quindi ecco, furono anni di grande fermento e di grande novità che poi ha dato origine a tante strade diverse, ecco. E appunto, tu parlavi di Don Mazzi ridotto allo stato laicale. Successivamente Don Mazzi è diventato insegnante elementare, ha insegnato per esempio la Montagnola. Ecco, secondo te quali legami ci possono essere tra queste due esperienze? Poi lui insegna in un contesto fortemente sperimentale, questo di tempo pieno degli anni 70, che era diverso da quello che ora è il tempo pieno. Allora, diciamo che mi sembra che in tutto il film si veda proprio il collegamento tra l'esperienza della comunità, e qui però sicuramente voi potrete dire anche qualcosa in più, tra appunto l'esperienza di comunità legata alla Chiesa e la scuola. E questo è un po' un tratto, direi, del mondo cattolico di quegli anni, e l'esempio più famoso è certamente Don Milani, che era già morto, perché muore nel 67, quindi è qualche anno precedente, però è proprio l'attenzione alla scuola come presupposto fondamentale per creare la partecipazione, perché la possibilità di dare a tutti la conoscenza di leggere, scrivere e comunque quelle conoscenze di base per poi poter prendere parola, poter partecipare, poter leggere la Bibbia, interpretarla, è appunto, direi, un presupposto fondamentale, che è la strada per creare una maggiore giustizia sociale, che poi è quella che era l'obiettivo di tutta l'esperienza del cattolicesimo del dissenso. Grazie. Allora, io ora passerei al regista e gli farei una domanda su uno dei punti di forza del film, ovvero il fatto di coniugare la prospettiva delle singole persone con la prospettiva della comunità. Ecco, come ci sei riuscito? È una delle domande che mi è sorta spontanea mentre lo guardavo. Grazie, buonasera a tutti, sono molto felice di essere qui, più che altro di vedere questo bel pubblico a seguire un documentario che non è, vi assicuro, cosa consona, benché in realtà questo film ci abbia regalato delle bellissime sorprese proprio in fatto di pubblico che, diciamo, ha adottato il film e lo ha supportato in maniera costante, facendolo girare. Oggi siamo credo alla 55esima proiezione, quindi è un risultato che ci ha stupito e che non pensavamo di riuscire ad arrivare, ma in realtà la comunità dell'Isotto lo merita. Io ho incontrato la comunità dell'Isolotto perché condividiamo il quartiere, nel senso, io abito all'Isolotto, ho scoperto l'Isolotto una dozzina di anni fa e ho scoperto un quartiere meraviglioso che avevo da subito voglia di iniziare a raccontare, perché era un quartiere che non mi aspettavo, benché giovane, ma denso di storia, denso di racconti. Per cui quando ho incrociato la comunità dell'Isolotto che mi ha proposto di fare questo lavoro, deve essere un lavoro piccolo, ma poi io mi sono innamorato di quello che doveva venire fuori e abbiamo messo tutti tanto di più per farlo diventare un documentario vero e proprio. Ecco, ho riscoperto una storia che secondo me aveva, proprio grazie al fatto, per assurdo, grazie al fatto che loro dopo il 69-70 avevano continuato per tanti anni a rimanere in piazza e poi continuare questa esperienza, in qualche modo avevano assorbito quello che era l'effetto eclatante che era stato alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 70, e quindi diciamo questa pagina di storia aveva perso la centralità che secondo me deve assolutamente avere per la storia di Firenze e non solo. E io, come mi, per rispondere alla tua domanda, ho fatto un cappello introduttivo per arrivare a rispondere alla tua domanda, come mi sono approcciato a questa storia? Mi sono approcciato cercando di conoscerla al meglio, quindi parlando con tutti i protagonisti, quelli che l'avevano vissuta e che quindi ancora potevano raccontarmi quello che era accaduto nel corso di questo mezzo secolo, più di mezzo secolo. E ho scoperto un materiale umano bellissimo, cioè non c'erano soltanto i racconti, ma c'era la forza del racconto, c'era la capacità di immedesimarsi in quello che era successo. Io ero rimasto affascinato da non tanto all'aspetto ecclesiale, io definisco agnostico, quindi non sono molto legato a quell'ambito, quanto all'aspetto di rottura, l'aspetto rivoluzionario, che da una parte trovava ragion d'essere in quello che avete raccontato voi, no? Quindi in un contesto scolastico preciso, ma dall'altro trovava una forza proprio nel popolo dell'Isolotto, nel fatto, come dice Carlo, uno dei narratori, che non c'era niente a difendere ma soltanto a costruire, e questa costruzione collettiva ha fatto sì di diventare dirompente anche nei confronti di un'autorità così forte come quella ecclesiale. Di fronte a queste testimonianze io ho preso quasi da subito coscienza del fatto che non c'era e non ci doveva essere, faceva parte proprio della filosofia della comunità dell'Isolotto, un protagonista. Non ci poteva essere una voce narrante, non ci poteva essere una voce fuori campo, proprio perché era una storia condivisa da tutti quelli che l'avevano vissuta, e quindi doveva per forza di cose essere un racconto collettivo. Per cui la cosa difficile è stato farlo diventare un racconto collettivo, perché voi adesso lo vedete così, e spero che vi sia arrivato il fatto che c'è un passaggio continuo di testimone tra un intervistato e l'altro, in una sorta di flusso narrativo senza soluzione di continuità, che vi assicuro non è stato semplice raggiungere, perché per fare questo io ho dovuto, e loro lo sanno, accendere la camera, cercare di far dimenticare all'intervistato l'apparato di ripresa, quindi luci, microfono che magari calava dall'alto, la camera, l'operatore di macchina, così, ma cercare di far dimenticare questa situazione, che è certo poco di naturale, per far diventare il racconto invece quanto possibile naturale e scevro da impostazioni, per andare a diventare un dialogo a bar, no? E per fare questo ci sono volute ore di registrazione, senza pensare a domande precostituite, ma lasciando che il narratore raccontasse la sua storia in concomitanza con la storia del Risolto. Soltanto alla fine, avendo raccolto oltre 40-45 ore di materiale, che poi Paola dovrà gestire all'interno dell'archivio, perché l'archivio della comunità del Risolto è stata ed è una risorsa fondamentale per la comunità, per il quartiere, per Firenze. E ecco, queste ore sono state poi smontate in modo da andare a ricercare quelle tematiche più importanti che sono venute fuori, cercando un intreccio di parole che rendesse bene quello che era probabilmente l'idea di Don Mazzi, perché Don Mazzi è stato probabilmente quello che ha impostato, che ha avuto l'idea di questa comunità, ma che è stato il primo poi a essere contento di fare un passo indietro e di condividere con la comunità stessa non solo le letture evangeliche o della Bibbia, ma anche le decisioni da prendere giorno dopo giorno. Ma su queste cose c'è chi sa più di me, quindi passo volentieri poi a loro la parola. Ho risposto? Ho fatto Appunto come sei venuto in contatto con la comunità dell'isolotto, quindi perfetto, mi hai letto nel pensiero. No, e quindi allora, visto che abbiamo parlato dell'archivio dell'isolotto, io partirei da questa. Come è nato? Come è stata presa questa decisione? Poi come è stato costituito quest'archivio? L'archivio è nato da subito, diciamo, dalla nascita del quartiere e della parrocchia, soprattutto dagli anni dal 55, e ha raccolto anche alcuni documenti dell'anno precedente, che è appunto l'anno di nascita del quartiere. E perché è nato? Perché l'esperienza condotta nella parrocchia, come è stato raccontato nel film, si è caratterizzata subito per questa apertura, per questa tensione al coinvolgimento delle persone che si erano incontrate lì per la prima volta, che come abbiamo visto provenivano da realtà diverse, che l'azione del parroco Enzo Mazzi aveva cercato di aggregare. Di aggregare facendole anche partecipare, insomma, alla vita della parrocchia, che all'inizio ha messo in campo tante attività, non tendeva assolutamente a creare divisioni tra credenti, non credenti, cercava di aggregare tutti. Questa impostazione, anche prima del concilio, però in parte possiamo considerarla anticipatrice di quello che il concilio poi ha portato, appunto, si è caratterizzata subito per degli aspetti di novità rispetto ad un cattolicesimo tradizionale più basato sui riti, più basato sui formalismi. E quindi è stato soprattutto Sergio Gomiti, il parroco coadiutore di Enzo, che lo ha affiancato dal 57, che ha avvertito questa necessità di documentare, di lasciare traccia di tutto quello che nella nuova parrocchia veniva fatto, veniva proposto, perché questa linea pastorale poteva essere anche soggetta a critiche, come abbiamo visto poi nel corso del tempo ci sono state nell'atteggiamento poi del vescovo Floritte, di alcune ambienti della curia, dei contrasti abbastanza forti rispetto all'esperienza che veniva impostata. Ecco, proprio per questo sono state raccolte fin da subito, sono stati raccolti documenti che conserviamo ancora nell'archivio e che diciamo, documentavano queste novità. E posso dire soltanto un esempio. Nel Natale del 54, pensiamo che le chiavi sono state consegnate nel novembre del 54, il parroco Don Mazzi, perché ancora Gomiti non c'era, invia una breve lettera a tutte le famiglie del quartiere, nella quale diceva che il nostro isolotto deve diventare il mondo della fraternità, dell'amore scambievole, cioè aveva volto in positivo tutte le difficoltà che le persone, anche spaesate, arrivate in questo nuovo ambiente da altri contesti, potevano trovarsi di fronte. Ecco, questa impostazione poi è stata portata avanti con coerenza nel tempo. Questo per dire è uno dei primissimi documenti, ma con costanza, soprattutto Gomiti li ha raccolti nel tempo. Faccio un altro esempio. Le omelie, da una certa data in poi, sempre per il discorso di contrastare possibili critiche, anche malevole, che venivano avanzate, insomma, rispetto all'azione dei sacerdoti, sono state spesso preparate comunitariamente, discusse prima il giovedì con un gruppo di laici, di giovani, e ne abbiamo traccia scritta nell'archivio, ci sono omelie quasi 200 trascritte, soprattutto dagli anni 60. Ecco, è una cosa anche un po' strana, perché forse nessuna parrocchia avrebbe in mente anche oggi, no, di lasciare traccia di queste cose, però probabilmente c'era una consapevolezza, ecco, di quello che di nuovo si provava a fare, e da questo accumularsi del materiale nel tempo, e poi con il caso Isolotto c'è stata un po' un'esplosione, perché sono arrivate lettere da tutto il mondo e nel giro di un mese sono state ricevute oltre 1000 lettere, eccetera. E, insomma, quindi l'archivio così si è formato e tuttora documenta anche nel piccolo, anche nelle iniziative molto più modeste che in anni più recenti abbiamo continuato a mettere in campo, però diciamo quello che è il confronto tra di noi, l'approfondimento anche domenicale sui vari problemi che vengono discussi, è comunque una traccia di un percorso che a questo punto va avanti da molto tempo, quindi può essere anche studiato, può avere dei profili di interesse anche per chi vuole studiare una certa evoluzione, no? Appunto maturata nel nostro ambiente. Effettivamente questa parte delle omelie conservate nell'archivio mi ha colpito, anche se non sono una specialista di storia della Chiesa, però sono veramente interessanti. Ecco, e ho un'altra domanda a voi due per concludere. Ecco, l'esperienza dell'Isolotto ha mostrato anche il tentativo di costruire una comunità più libera e uguale rispetto a quelle che erano quelle strutture dello Stato, della società. Ecco, qual è il lascito che voi sperimentate tutti i giorni nella vita all'Isolotto? Sì, no, io vorrei partire proprio da questa conclusione che si dovrebbe fare, ringraziando e riaffermando il grande lavoro che ha fatto Federico come regista rispetto a una storia che lui non ha vissuto. Cioè, io la storia che è descritta l'ho vissuta da 4 anni, quando mio padre ha avuto le chiavi in piazza nel 54, avevo anzi 3 anni. Ho fatto il cherichetto con Enzo appena è cominciata la parrocchia, ho fatto lo scout, insomma l'ho vissuta pienamente fino, e la sto vivendo ancora oggi, anzi. Quello che vorrei dire prima che me ne dimentichi, perché è tardi e c'è poco tempo, è questo. Questo film è un film straordinario che documenta la storia dell'Isolotto, che anche per chi è stato protagonista come noi, rivedendosi insomma poi come voce testimoniale, vi assicuro che noi l'abbiamo vissuta con una grande normalità. Poi è diventato un caso mondiale. Però noi non siamo convinti di aver fatto cose chissà che straordinarie. Abbiamo fatto cose normalissime. E credo che uno dei messaggi più importanti che viene da questa storia, oltre a chi non l'ha vissuta conoscerla e avere stimoli di andare a conoscerla, perché la memoria è un elemento fondamentale, credo che debba essere volta verso il futuro e fare capire a tutti che non si deve avere paura delle cose piccole che facciamo tutti i giorni, ma è importante farle, è importante crederci, è importante in queste piccole cose essere convinti di fare qualcosa che non è del nostro mondo individuale, ma che si ricollega a altre persone che ci stanno attorno. Poi per mille motivi vari può diventare un fatto anche internazionale, ma vi assicuro che noi non siamo mai, ci siamo mai sentiti delle persone straordinarie, ci siamo sentiti delle persone normalissime. E abbiamo fatto una cosa straordinaria, questo sì. Vorrei correggere un po' anche la presenza. Enzo non è mai stato ridotto allo stato laicale. Enzo non è mai stato scomunicato a Divinis. Se c'è stato un problema nell'esperienza dell'Isolotto è non la laicizzazione del sacerdote, ma la sacerdotalizzazione dei laici. Cioè noi siamo, ci siamo sentiti parte di essere responsabili di quello che in genere nella tradizione ecclesiastica ha assegnato ancora come ruolo sacramentale del sacro che si impone, che mantiene un potere nel sacerdote. Quindi Enzo ha avuto, è stato privato della parrocchia come siamo stati privati noi della parrocchia in quanto edificio fisico. Ma abbiamo continuato a esprimere la nostra appartenenza a valori del cristianesimo fuori dalla cristianità in maniera collettiva, in maniera insieme. Questo è stato il vero problema dello scontro con la gerarchia ecclesiastica. Perché all'interno del fermento e della germinazione del cattolicesimo fiorentino, di cui si parla moltissimo anche nel film, ma di cui tanto si conosce, anche è stato rammentato nell'introduzione, la cosa fondamentale che poteva essere sopportata è che fosse un'esperienza di tipo o di ambito teologico o di ambito ristretto a cerchie importanti ma molto limitate. Se un quartiere intero su questi paradigmi fonda nuovi modi di vita e di crescita in comune, allora diventa preoccupante non solo per l'istituzione chiesa, ma anche per le istituzioni laiche della società. Tant'è vero che io credo che oggi, guardando questo film e guardando questo passato, dovremmo proiettarlo sull'oggi e capire cosa vuol dire oggi essere comunità, essere in relazione con gli altri. E allora io credo che bisogna dire una cosa, che questo film documenta una fase importante e fondamentale saperle queste cose, conoscere, essere invogliati a ritornare a rileggersele, a riguardarsele. Ma la cosa più importante è che noi esistiamo ancora oggi come comunità dell'Isolotto. Questa non è l'atto, e mi sembra sia chiaro dal film, lo stesso titolo, eccetera, non è la commemorazione storica, fra virgolette, di un qualcosa è esistito e che non esiste più. No, in forme diverse la comunità, e questa esperienza continua anche oggi. E vorrei chiudere dicendo una cosa, spiegare quello che noi non diciamo mai in queste presentazioni perché lo diamo per scontato. Ma questo documentario nasce in un contesto ben preciso, che è quello dei 10 anni della morte di Enzo Mazzi. E l'idea di fare questo documentario, insieme a altre due cose, è nata proprio perché in occasione di questo anniversario è girata a Firenze una proposta con una grande raccolta anche online di firme di dedicare la piazza dell'Isolotto a Enzo Mazzi. Noi della comunità ha fatto un grande piacere che ci fosse un movimento d'opinione che riconoscesse a Enzo Mazzi questo ruolo, e quindi figuriamoci, ma avendo fatto un percorso con Enzo eravamo convinti che Enzo sarebbe stato il primo a non essere d'accordo a farsi dedicare una piazza che poi è la piazza dell'Isolotto. L'Isolotto è un quartiere particolare che ha tutte le vie dedicate ai nomi delle piante, perché era un villaggio, una città giardino. Le vie delle piante non sono le vie degli eroi che hanno fatto la nazione, no? La storia del paese, i governanti, i Garibaldi, i Mazzini, Vittorio Emanuele, eccetera. Sono piante e fiori, arbusti. L'uniche due toponomastiche diverse sono Piazza dell'Isolotto, che è il simbolo e il nome del quartiere, e il Viale dei Bambini, perché questo quartiere è stato concepito non per gli adulti solo, ma soprattutto per i bambini. È una città, un quartiere popolare che è nato a misura di bambini. Ecco, Enzo non sarebbe stato, dal dove è ora, sarebbe stato imbestialito a sapere che gli avrebbero intitolato Piazza dell'Isolotto. Però siccome ci sembrava anche irrispettoso non accettare questa idea bella di dare valore a questa figura, avevamo pensato di ricordare 10 anni della vita di Enzo facendo un convegno, e l'abbiamo fatto, sull'esperienza di tutti gli anni della comunità dell'Isolotto, di pubblicare un volume di testi molto rari a ritrovarsi perché sparsi in giornali di Enzo, che è compagni di viaggio, e soprattutto a fare un documentario che illustrasse non tanto e solo la figura di Enzo, ma cosa ha voluto dire la figura di Enzo in questo contesto. Ecco, questo film documenta benissimo questa cosa, cioè che Enzo è stato fondamentale, non è vero che non è fondamentale, ma non sarebbe quello che è stato se non avesse avuto tutta quella coralità di persone che voi avete visto documentate nel film, molte delle quali non ci sono più, molte si sono avvicinate dopo e sono oggi quelle che portano avanti questa ricerca in dimensioni molto più contenute e molto più normali ancora dell'oggi, Però io credo che da questo documentario nasce due impulsi importanti. Uno di recupero memoriale di questa esperienza normalissima, che però è diventata proprio per i suoi valori reali, come l'esperienza di Don Milani a Barbiana, eccetera, un'esperienza di livello mondiale che ha attirato attenzione, interessi e dato lievito e forza a tante altre realtà che esistevano parallelamente a quella nostra. E se io voglio, visto che siamo a Pistoia, vorrei ricordare invece, al di là di tanti discorsi del passato, una presenza importantissima come quella della comunità che attualmente fa accoglienza con Biancalani a Pistoia, che è fondamentale ai nostri giorni, che è un'esperienza quotidiana ma di grande importanza e rilevanza come quella che è stata fatta 50 anni, 60 anni fa all'Isolotto. Ecco, io credo che questo film proietti al passato ma anche al presente e al futuro. E credo che la nostra gioia di essere membri e parte di questa avventura sia quella che prosegue ancora oggi, di essere qui a dirvi: guardate, al di là di tutto quello di stupendo che è descritto, ci sono cose che continuano oggi e è bene darsi da fare perché questo continui, perché poi quella memoria dia frutti o faccia fiorire piante, semi, eccetera, come diceva qualcuno nella parte finale, ecco, in modo molto naturale e semplice, ecco questo. Ma sicuro che anche noi che siamo stati protagonisti, rivedendosi l'intervista, a parte il lavoro straordinario che ha fatto Federico, sicuramente, ecco questo, credo, è un documento che avete visto, dura tantissimo, un documentario che dura tantissimo. Io all'inizio avevo una gran paura per i tempi che corre, che mi dicono che delle volte c'è persone che non riescono a sopportare delle immagini più di 10 minuti, 5 minuti, invece tiene, cattura proprio per una narrazione. Lui quando mi ha ripreso nelle mie interviste mi ha fatto un'unica intervista, poi qui è stata suddivisa in tre parti, ma io riguardandola mi sono accorto in maniera straordinaria di come quello che ho detto è diventato parte di una narrazione corale stupenda e devo dire dà il senso profondo di quella che è stata la nostra esperienza. Però ecco, se devo dirvi con tutta franchezza quello che vorrei dire a chi assiste a questo film è che guardiamolo anche verso il presente, magari pensiamo anche a una puntata di quello che è il 2010-2020, perché questa esperienza ha un senso se continua anche nell'oggi, e continua sia all'Isolotto ma in molte altre parti, a Pistoia. Noi, ecco, volevo dirvi solo questo: i primi giorni di maggio ci siamo riuniti come comunità cristiane di base, che ancora questo coordinamento esiste, a Pesaro, a un convegno nazionale, e abbiamo dedicato questo convegno nazionale di quest'anno a questa proposta di costituzione della terra, non so se ne avete sentito parlare, che ha elaborato Ferraioli, un altro gruppo, che è una proposta straordinariamente visionaria e apparentemente utopistica, ma tutto dentro la realtà attuale, che parla di andare a un ordine del mondo che superi la dimensione degli stati nazionali per creare davvero delle premesse di pace, di giustizia nel mondo, che non sono quelle che abbiamo ancora raggiunto. E quindi, ecco, per dirvi, è un terreno di lavoro e che continua anche ai nostri giorni. Certo, poi le dimensioni dipendono da tante cose, ma quello che è importante è che questo vento continua a soffiare e quindi bisogna sentirlo e dargli sostanza, ecco questo. Mi fa piacere prendere la palla dal balzo per dire come esperienze passate guardino al futuro. In questo caso la presenza dell'Istituto Storico della Resistenza è uno di quei casi in cui, partendo dal passato, si continua a coltivare per il futuro, anche prendendo le parole di Enzo Mazzi, l'odio di un fiume carsico che comunque esce e rientra al terreno. Per cui io vorrei ringraziare tutti coloro che lavorano per i vari storici della Resistenza e per le varie ampi, perché credo che il lavoro che stanno facendo, specialmente in questo momento storico, sia fondamentale. Grazie. Ci sono domande? Benissimo, allora se non ci sono domande io vi ringrazio per essere rimasti con noi fino a un quarto a mezzanotte. Vi saluto e vi ricordo che il prossimo lunedì ci sarà il terzo ed ultimo appuntamento del Pistoia Docu Film Festival con un importante documentario sull'alluvione nel Polesine, e lo organizzeremo insieme ai giovani del Fridays for Future. Arrivederci e grazie.